saremo, di me donna che mi serpi ne saremo. Scaglia, scaglia, burla, parole, sarete tu, muovi il mio cervotto. Di me donna che mi serpi ne saremo, se le burla, parole, sarete tu, se le burla, parole, sarete tu. Ho finire di piacer po' dolor, ho finire di piacer po' dolor. Andando con le rogle che vo, sulla senda, sul vetro, sul reno, animando battaglia, vendetta, ogni voglia che non ti vanno. Andando con le rogle che vo, sulla senda, sul vetro, sul reno, con le rogle che vo, vendetta, battaglia, vendetta,